Fattogiorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. 31 persone identificate, tra loro 18 richiedenti asilo per le violenze di Capodanno a Colonia. La Germania valuta un irrigidimento delle norme sulle espulsioni. Nuove perquisizioni nell'inchiesta su Banca Etruria. Si ipotizzano prestiti facili a società degli stessi vertici della banca e quindi conflitto di interessi nella concessione del credito. Trovato a Bruxelles il covo dove si costruirono gli esplosivi per le bombe di Parigi. Il procuratore della capitale belga dice: intanto temiamo un attentato per il 15 di gennaio. Il governo vuole abolire il reato di immigrazione clandestina. Scontro tra PD e Nuovo Centrodestra, mentre la Lega dice: prepariamoci all'invasione. Desecretate le telefonate tra gli amici Tony Blair e Bill Clinton. Il presidente americano al premier inglese: da gennaio sono libero per farti da babysitter. E poi ancora: sei in Toscana, sono invidioso. Musica: dopo 3 anni esce il nuovo disco di David Bowie e per i concerti torna in tour la coppia Morandi-Baglioni. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, i nostri contatti in apertura come sempre, effettogiorno@radio24.it per scriverci, c'è il numero di sms, il 349-238-6666, che poi è anche quello per WhatsApp, dunque 349-238-6666, se volete scriverci durante la diretta. In apertura dunque andiamo a Colonia, dove ci sono i primi risultati delle indagini sulle violenze di Capodanno. Abbiamo in studio con noi Raffaella Calandra per un punto. Raffaella, ciao. Sì Simone, esaminate le foto, incrociati i racconti di vittime e testimoni, alla fine sono arrivati i primi arresti e la conferma che tra i responsabili delle aggressioni di massa di Capodanno ci sarebbero anche dei richiedenti asilo. 31 sospetti sono stati portati in carcere, accusati di aver derubato, molestato almeno 121 donne a Colonia, due delle quali anche stuprate. Di questi 18 sarebbero profughi in attesa di asilo politico, ma nei loro confronti le contestazioni sono solo di furti, lesioni, non di molestie. La domanda è: sono alcuni dei tantissimi, soprattutto siriani, arrivati nel 2015 dei record con 1.100.000 ingressi in Germania? Di sicuro questi arresti, che confermano racconti e indiscrezioni della vigilia, travolgono ancora di più la polizia, finita sotto accusa per la sua debacle, e inaspriscono la polemica sulla cosiddetta Willkommenpolitik della cancelliera. Quanto è accaduto la notte di Capodanno è inaccettabile e ripugnante, ha scandito ieri Angela Merkel, che sentiamo in sottofondo, chiedendo segnali chiari in risposta a queste aggressioni che hanno lasciato l'intera Germania disorientata, anche perché notizie di molestie stanno arrivando anche da altre città come Amburgo o Francoforte, ma pure da città di altri paesi come Helsinki, Salisburgo, Zurigo, che comunque in questi mesi hanno registrato un incremento di migranti. Al Bundestag si valuta un'accelerazione su un piano per rendere più veloci le espulsioni degli stranieri macchiati di reati gravi come questi. Ed è stata la stessa cancelliera a chiedersi ieri se si sia fatto tutto il necessario fino adesso. Berlino, cioè, vuole dare una risposta forte, anche perché la destra di Alternative für Deutschland è pronta ad approfittare della situazione nelle prossime elezioni regionali da marzo a settembre in diversi Länder e a mettere in difficoltà la politica di apertura ai migranti e anche il rapporto interno della polizia su quella notte di Capodanno nel cuore di Colonia. Sono siriano, non potete farmi niente, mi ha invitato Frau Merkel, avrebbero detto alcuni, e altri con aria di sfida avrebbero stracciato i documenti, tanto domani, avrebbero detto, me ne danno altri. Questo è il quadro, Raffaella, dal lato della Germania. Poi ci sono dei paesi che hanno deciso di reagire anche duramente, come la Slovacchia, no? Sì, già ieri il capo del governo slovacco ha fatto sapere di non volere più profughi di musulmani, perché ha detto: Fico, non vogliamo che si ripeta da noi quanto successo già in Germania. Cioè, quello che sta succedendo in Germania non solo sta creando un serio problema politico per la cancelliera e in qualche modo rischia di far anche incrinare quella che era stata fino adesso la sua politica di apertura indiscriminata verso i richiedenti asilo, ma in qualche modo può contagiare, diciamo così, e spaventare anche altri paesi della centro Europa, a cominciare appunto dalla Slovacchia. Ti ringrazio, grazie alla nostra Raffaella Calandra per questo aggiornamento. Poi più avanti nel corso della trasmissione torneremo a parlare di immigrazione, perché il governo sta valutando il decreto, sta valutando con un decreto di abolire il reato di immigrazione clandestina, e parleremo e torneremo anche a Colonia. Lo faremo più avanti con una giornalista che si trova là, posto che anche la nostra Raffaella Calandra partirà nel fine settimana, e poi sentiremo il suo racconto tanto nel fine settimana di informazioni di Radio 24 quanto ovviamente lunedì ancora una volta in effetto giorno. Torneremo più avanti su questi temi. Intanto parliamo dell'inchiesta su Banca Etruria, che vede un nuovo sviluppo: perquisizioni in una sede di società riconducibili ai vertici della stessa banca e che avrebbero ottenuto prestiti ovviamente concessi dai vertici delle stesse banche. Daniele Morini, buongiorno. Sì, buongiorno. Una quindicina di società con sede in Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, tutte avrebbero ricevuto appunto finanziamenti da Banca Etruria e allo stesso tempo sarebbero riconducibili all'ex presidente dell'Istituto di Credito, Lorenzo Rosi, e all'ex consigliere Luciano Nataloni. Nelle sedi di queste società stamattina è iniziata la perquisizione della Guardia di Finanza di Arezzo, con l'obiettivo di acquisire documenti e materiale utile a ricostruire i legami con la banca. La Procura di Arezzo infatti indaga sulle gravi perdite patrimoniali di Banca Etruria, che sarebbero state causate anche dall'operato degli ex amministratori accusati di conflitto di interesse. Gli inquirenti vogliono fare chiarezza sui finanziamenti e gli affidamenti accordati dalla banca a queste società, somme mai restituite a quanto pare, tanto da generare sofferenze per l'istituto erogante. Finanziamenti deteriorati, insomma, che avrebbero generato perdite per 18 milioni di euro. Le perquisizioni delle Fiamme Gialle hanno toccato anche la sede centrale di Banca Etruria per acquisire i verbali del Consiglio di Amministrazione con le decisioni degli affidamenti alle aziende sotto osservazione. Da Arezzo è tutto, linea allo studio. E grazie a Daniele Morini per questo aggiornamento sulle vicende di Banca Etruria. Parliamo di terrorismo adesso. All'indomani dell'uccisione di un uomo al commissariato di Parigi fanno un passo avanti le indagini sugli attentati di novembre. È ancora mistero sull'identità dell'uomo che ieri ha cercato di assalire un commissariato a Parigi. Armato solo di una mannaia, è stato abbattuto dai poliziotti. Ebbene, le sue impronte digitali erano state registrate nel 2013, quando era stato fermato nel sud della Francia per furto. Aveva detto di chiamarsi Salah Ali e di essere marocchino, ma oggi gli inquirenti hanno seri dubbi su questa identità. Lui era scomparso nel nulla per poi rendersi protagonista ieri di un atto che sembra più quello di uno squilibrato che di un guerrigliero dell'ISIS. Da Bruxelles invece oggi è arrivato qualche elemento in più sull'indagine relativa agli attentati parigini del 13 novembre. In un appartamento sono state ritrovate le impronte digitali di Salah Abdeslam, uno dei terroristi fuggiti, nemico pubblico numero uno. In quell'appartamento c'erano anche delle esplosive e delle cinture. Sì, proprio lì potrebbero essere state fabbricate le cinture esplose quella maledetta sera del 13 novembre. Leonardo Martinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi. Abbiamo detto che avremmo parlato di immigrazione. Due fronti sono aperti all'interno della maggioranza. In entrambi il tema vede uno scontro tra il nuovo centrodestra e il Partito Democratico. Il primo appunto è quello delle unioni civili, il secondo quello del reato di immigrazione clandestina. Iniziamo da qua con l'analisi di Daniele Biacchessi. Il reato di immigrazione clandestina è entrato nel nostro ordinamento nell'agosto 2009. Riguarda l'ingresso e il soggiorno illegale dei migranti nel territorio dello Stato italiano e resta il punto centrale delle politiche sull'immigrazione del centrodestra. Il reato ha suscitato le ire di associazioni del volontariato, del Pontificio Consiglio per la Pastorale dei Migranti. Non solo. Nel dicembre 2010 è stato ritenuto incostituzionale dalla Suprema Corte e la Corte di Giustizia Europea, con la sentenza del 2011, stabiliva che gli Stati membri non possono introdurre una pena detentiva. Per effetto di questo reato, in 6 anni le patrie galere sono state riempite di persone che hanno solo aggravato la loro situazione e alla loro disperazione hanno dovuto aggiungere il carcere. Le conseguenze più drammatiche si verificano nel caso di immigrati che escono dal circuito penitenziario e si ritrovano privi di un permesso di soggiorno, magari soltanto per la mancata possibilità di rinnovo nel periodo della detenzione. Ecco perché il governo ora pensa di cancellare il reato per decreto, per eliminare un'anomalia in antitesi con i dettami della nostra Costituzione. E anche di questo torneremo a parlare più avanti, lo faremo col procuratore generale di Roma Giovanni Salvi, che a lungo è stato procuratore a Catania e quindi molto si è occupato dei temi dell'immigrazione, per capire se ci sia una ratio in questa decisione dell'esecutivo. L'altro fronte di scontro all'interno della maggioranza, e quindi tra il nuovo centrodestra e il Partito Democratico, continua a riguardare le unioni civili. Elisabetta Fiorito, ciao, buongiorno. Sì, proprio così, il testo Cirinnà sulle unioni civili sta per approdare nell'aula di Palazzo Madama, ma intanto sale la tensione nel PD e nella maggioranza, soprattutto con il nuovo centrodestra Area Popolare. Lunedì ricominceranno i lavori parlamentari, i vertici democratici tenteranno una mediazione, ma il fronte cattolico fa quadrato, c'è chi vorrebbe un nuovo Family Day a fine gennaio. Il nodo è la stepchild adoption, la possibilità per il partner di adottare il figlio naturale del compagno in una coppia omosessuale. Anche oggi Maurizio Sacconi di Area Popolare avverte: né simili matrimoni né simili adozioni. In sostanza, qualcuno nel PD propone la mediazione dell'affido rafforzato, ma per Sacconi anche questo è un no, perché il no, il minore deve crescere su un contesto che non abbia che abbia differenza di genere. Dall'altra parte l'associazione Arcigay e Arcilesbiche preparano una giornata di mobilitazione nazionale il 23 gennaio e annunciano un presidio nei pressi del Senato durante la discussione del disegno di legge. Il 18 gennaio invece è prevista una direzione PD sul tema. Ricordiamo, il Movimento 5 Stelle appoggia il disegno di legge Cirinnà, ma non vuole compromessi al ribasso, e anche gran parte di Forza Italia. Non ci dovrebbero quindi essere problemi di voto. A te, Simone. E grazie Elisabetta Fiorito. All'indomani veniamo all'economia italiana, all'indomani dei dati che sono arrivati ieri su disoccupati e occupati. Un'altra messe di numeri arriva dall'Istat questa mattina: la spesa delle famiglie, il potere d'acquisto, i dati sui conti economici dello Stato, i prezzi delle case. Vediamo di fare un punto e un po' di chiarezza con Vincenzo Miglietta. Vincenzo, buongiorno. Sì, buongiorno. Partiamo allora dai segnali positivi per i conti pubblici. Questo sempre secondo l'Istat. Nella media dei primi tre trimestri 2015 il rapporto deficit-PIL ha fatto segnare infatti 2,9%, con un miglioramento di 0,4 punti sullo stesso periodo del 2014, quando era pari al 3,3%. Nel solo terzo trimestre dello scorso anno il deficit è stato pari al 2,4% del PIL. Bene anche il saldo primario, ovvero l'indebitamento al netto degli interessi passivi, con un'incidenza sul PIL dell'1,5%, il lieve aumento invece la pressione fiscale pari al 41,4% e le entrate totali. Altro capitolo, quello delle famiglie. Sempre secondo l'Istat, nel terzo trimestre 2015 la spesa per consumi finali è aumentata dello 0,4% rispetto al trimestre precedente e dell'1,2% nell'anno, conseguenza questa di una maggiore disponibilità delle famiglie in termini di reddito e di potere d'acquisto. Ripartono quindi i prezzi delle abitazioni, con il primo aumento con congiunturale in 4 anni. Soddisfatto il ministro dell'economia Padoan, che scrive: aumentano i redditi, scende la disoccupazione, le riforme strutturali funzionano, l'Italia usa bene la flessibilità. Chiaro il riferimento di Padoan alle parole di ieri del presidente dell'Eurogruppo Dijsselbloem, che aveva invitato il nostro paese a non esagerare nell'utilizzo della flessibilità europea. È tutto, linea allo studio. E grazie Vincenzo Miglietta, che ci ha dunque dato conto evidentemente di un altro fronte di scontro, quantomeno di tensione tra l'Europa e l'Italia. Veniamo al quadro dei mercati di oggi. Questa mattina le borse europee hanno tentato un lieve rimbalzo, ma non ci sono riuscite, almeno stando a quello che vediamo in questo momento sui listini. Il FTSE MIB cede lo 0,28%, il FTSE Share lo 0,24%, Parigi lo 0,42%, Francoforte scende dello 0,21%, lievemente positiva Londra dello 0,10%. Tutto ciò nonostante la borsa cinese, le borse asiatiche in genere oggi siano andate bene. È un paradosso quasi incredibile. Le borse cinesi vanno in ripresa dopo che a sorpresa le autorità di Pechino hanno eliminato i meccanismi che impediscono una perdita giornaliera superiore al 7%. Strumenti introdotti proprio all'inizio di quest'anno e subito scattati lunedì e ieri, sospendendo gli scambi. Hanno fatto più male che bene, secondo la maggioranza degli investitori, e Pechino ne ha preso atto con risolutezza. Inoltre oggi la banca centrale cinese ha fissato la parità del renminbi più alta rispetto a ieri, dopo ben 8 giorni di declino. Un segnale che la valuta cinese non va considerata necessariamente in precipitosa e inarrestabile scivolata, il che tende a rassicurare gli investitori, la cui attenzione si sposta ora sugli importanti dati sull'occupazione negli Stati Uniti in arrivo stasera. Alla buona ripresa di Shanghai corrisponde il segno positivo su altre piazze asiatiche, salvo Tokyo in calo dello 0,4% a causa del cedimento del titolo del colosso dell'abbigliamento Fast Retailing, casa madre di Uniqlo. Le sue vendite sono state penalizzate da un inverno troppo bello. Anche il tempo dunque contribuisce alla volatilità dei mercati. Stefano Carrer, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Tokyo. C'è la politica internazionale, certo, ma non c'è solamente quella nelle conversazioni desecretate oggi tra l'allora presidente americano Bill Clinton e l'allora premier britannico Tony Blair, quando erano entrambi in carica. Ne emerge tra l'altro un rapporto a quanto pare di vera e propria amicizia. Sentiamo. È uno spaccato inedito, fatto di battute, allusioni e confidenze, quello che emerge dalle conversazioni telefoniche tra Bill Clinton e Tony Blair tra il 97 e il 2000, quando i due erano rispettivamente presidente degli Stati Uniti e primo ministro britannico. Lo sai, da gennaio sono libero per fare il babysitter, dice Clinton a Blair in attesa della nascita del figlio. Ti inserisco nella lista dei candidati, replica il premier. Le trascrizioni sono state rese note dalla Clinton Presidential Library in base al Freedom of Information Act, la legge americana che tutela il diritto di accesso agli atti amministrativi. I due non perdono mai l'occasione per scherzare, si definiscono strizzacervelli, pronti a offrire terapie globali ai politici per risolvere le crisi internazionali. L'allora emergente Vladimir Putin viene definito da Clinton intelligente, serio e con potenziali enormi. Tra gli argomenti spuntano la morte di Lady Diana e il processo di pace in Irlanda del Nord, ma anche i maglioni di Kashmir scozzese, i film della Pantera Rosa e le battute di caccia. Infine, un tema su cui la satira si sta già concentrando, un ricorrente riferimento alle banane. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora parliamo di musica. Look up here, I'm in heaven. I've got scars that can't be seen. Per chi la voce non l'avesse riconosciuta, è quella di David Bowie. Oggi, giorno del suo 69esimo compleanno, esce il suo 28esimo album di inediti, intitolato con il simbolo di una stella nera, Black Star. L'album contiene 7 brani inediti, arriva a 3 anni di distanza da The Next Day. The Next Day era uscito a marzo 2013, dopo 10 anni di silenzio, e che arrivò al primo posto delle classifiche in 19 paesi. Noi adesso ci fermiamo, ci prendiamo una pausa per il traffico e poi torneremo a parlare di quello che è successo nella città tedesca di Colonia, collegandoci proprio con Colonia, e poi torneremo sulla vicenda di Quarto, del comune di Quarto, dove, come già vi abbiamo raccontato ieri, c'è un problema che riguarda l'amministrazione a 5 Stelle dopo l'intercettazione nella quale un imprenditore dice di far convergere i voti, un imprenditore sospettato di camorra, di collegamenti con la camorra, di far convergere i voti proprio sui 5 Stelle. Ieri abbiamo sentito un deputato 5 Stelle, come annunciato, oggi sentiremo l'altra parte, il Partito Democratico. A tra un attimo. Effetto giorno. 31 persone identificate, tra loro 18 richiedenti asilo per le violenze di Capodanno a Colonia. I richiedenti asilo sarebbero sospettati solamente di furti, mentre arriva di pochi istanti fa la notizia che almeno 15 donne hanno denunciato di essere state molestate da un gruppo di uomini la notte di Capodanno a Kalmar in Svezia, lo riferisce il portavoce della polizia svedese. 2 richiedenti asilo sono stati informati da interpreti di essere sospettati, si stanno cercando altri sospetti. Ci sono nuove perquisizioni nell'inchiesta su Banca Etruria, si ipotizzano prestiti facili a società degli stessi vertici della banca e quindi conflitto di interessi nella concessione del credito. È stato trovato a Bruxelles il covo dove si costruirono gli esplosivi per le bombe di Parigi. Il procuratore della capitale belga dice: temiamo un attentato il 15 di gennaio. Il governo vuole abolire il reato di immigrazione clandestina, c'è uno scontro tra PD e Nuovo Centrodestra, mentre la Lega dice: prepariamoci all'invasione. Ed eccoci di nuovo con Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Saluto Daniela Annosari, che è una collega giornalista e lavora per Radio Colonia, un programma radiofonico in lingua italiana del palinsesto di Funkhaus Europa e canale dell'emittente radio televisiva pubblica VDR. Buongiorno Daniela e benvenuta. Ciao, Ciao, buongiorno. Allora, più che gli aggiornamenti di cronaca, vorremmo sapere da te, che sei in città, che clima si respira. Chiaramente c'è grande rabbia, è un tema molto molto caldo che scalda gli animi, sono tante persone, donne ma anche uomini, che pensano di procurarsi e stanno già comprando spray urticanti e che discutono, si discute cosa fare, come comportarsi, reagire con manifestazioni, evitare le manifestazioni di massa per timore che questo si ripeta. Si pensa già al carnevale che tra meno di un mese porterà di nuovo nella stazione di Colonia, in tutta la città, delle grandissime masse, quindi il tema è caldissimo, se ne discute a ogni angolo e le opinioni sono divergenti anche su come affrontare questo su tema. Su come affrontare la questione, perché da un lato c'è la cancelliera Merkel, che abbiamo letto sarebbe intenzionata a, come dire, a irrigidire i regolamenti sulle espulsioni, cioè renderle più facili in sostanza. Questo sì, è un dibattito che assolutamente sta prendendo piede, che sicuramente dopo la notizia di oggi di questa presenza confermata dal Ministero degli Interni di 18 richiedenti asilo diventerà ancora più presente. In realtà in molti criticano il fatto che si stia spostando un po' troppo il dibattito su questo aspetto senza andare a fondo di un paio di altre questioni. La questione principale è il comportamento della polizia durante la notte di Capodanno e anche dopo, perché il presidente della polizia di Colonia, Wolfgang Albers, ha dato delle informazioni che a quanto pare non corrispondono a verità. Sono sempre più testimoni che raccontano cose che non corrispondono a quello che è stato detto dalla polizia. E per esempio, allora, da un lato assicura che la presenza della polizia, soprattutto dopo l'inizio, insomma dopo i primi scontri, sia stata massiccia, comunque ci fossero 210-213 poliziotti in stazione. Molti testimoni oculari dicono che hanno visto veramente pochi, pochi poliziotti e che questi fossero assolutamente inadeguati a gestire la situazione. Un altro punto molto che veramente inquietante è un punto emerso ieri da un rapporto interno secondo cui diverse ragazze, donne, si sarebbero rivolte a poliziotti durante la notte di Capodanno spiegando quello che era successo in lacrime, sotto shock, e in parte sarebbero state non prese sul serio o comunque non aiutate, e quindi non si può affermare, come ha fatto il presidente della polizia, che la polizia in quel momento non capisse cosa agito nella maniera migliore. Daniele, un altro paio di cose. Partirei innanzitutto dalle voci che sono circolate nelle ore scorse di qualcosa di organizzato, cioè che quello che è successo in quella piazza fosse sostanzialmente qualcosa di preparato prima. Che cosa sta emergendo da questo lato? Guarda, sui fatti di Colonia, da questo punto di vista non ti posso dire nulla, nessun dettaglio, però è vero che oggi il ministro degli interni del Baden-Württemberg, una regione più a sud di noi, ha ricordato che a dicembre, proprio nella sua regione, sarebbe arrivato un gruppo di persone arrivate dall'Italia, tra l'altro probabilmente di origine marocchina, che avrebbe frequentato una festa techno solo con l'intento di derubare. Quindi nell'ambito di questo dibattito ha fatto notare che la dimensione in quel caso non era assolutamente paragonabile a quello che è successo a Colonia, non c'era l'aspetto delle violenze sessuali, però ha ribadito che in questa direzione bisogna andare, bisogna investigare. Ti ringrazio, grazie a Daniela Nosari, che è giornalista di Radio Colonia, un programma radiofonico in lingua italiana del palinsesto di Funkhaus Europa. Tra l'altro, se andate sul sito potete cercarlo, cercare su Google o su qualsiasi altro motore di ricerca, naturalmente Funkhaus Europa Radio Colonia, troverete, potrete sentire il bel lavoro che fanno non solo da Colonia ma anche da altre città. Emanuele Fiano, deputato del PD, responsabile sicurezza, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Eccoci qua, per parlare della vicenda di Quarto. Che cosa è successo a Quarto? Ormai i nostri ascoltatori lo sanno, c'è un'intercettazione telefonica di un imprenditore ritenuto vicino alla Camorra, o almeno indagato per essere vicino alla Camorra, che dice di far convergere i voti un esponente, sul Movimento 5 Stelle in generale, in particolare riferito ad un esponente. Questo esponente è stato già espulso dal Movimento 5 Stelle, adesso si inizia a pensare che forse qualche cosa circola, è uscito oggi sul Fatto Quotidiano, che nello stesso Movimento 5 Stelle si pensa che forse la sindaca anche dovrebbe dimettersi. Qual è la vostra valutazione, Fiano? Lo ricordiamo agli ascoltatori che ci avessero ascoltato solo oggi, ieri abbiamo sentito un deputato del Movimento 5 Stelle, oggi sentiamo l'altra parte, chi li accusa anche con durezza, insomma, che siete voi. Fiano, che cosa dite su questa vicenda? Ma intanto bisogna ricostruire con esattezza i fatti. Gli atti della Procura della Repubblica riportati dai quotidiani dicono che oltre all'assessore comunale, già presidente del Consiglio Comunale, espulso il 14 dicembre, oggetto di appunto conversazioni, intercettazioni con esponenti della Camorra, che su di lui come nominativo, ma in generale sul Movimento 5 Stelle, avrebbe, ovviamente uso condizionale in corso d'inchiesta, fatto convergere i voti, ma oltre a questa vicenda dei voti c'è una deposizione del sindaco, si dice nelle carte, che avrebbe dichiarato di essere stato oggetto di, diciamo, sostanzialmente di un ricatto, da lei respinto, ma oggetto comunque di un ricatto, di un tentato ricatto, agito attraverso un'ipotesi di evidenziazione di una sua condizione di abuso edilizio nella sua abitazione, cosa che peraltro adesso la sindaca smentisce, ho sentito oggi un'altra intervista fatta dalla sindaca, però è nelle carte della procura secondo quello che scrivono i giornali. E poi, ma io ovviamente non sono in grado di controllare questo, la sindaca smentisce che forse ci sono stati degli affidamenti, non solo sul campo sportivo, ma magari anche su determinate concessioni di apparato idrico, mi pare, a imprese sospette, anche se, ripeto, riferisco a cose che ho letto sui giornali, non sono in grado di dire se sia vero che quelle imprese sono sospette, se sia vero che quelle... Riassumo io, quello che stanno scrivendo in giornali in queste ore è che la sindaca sotto ricatto avrebbe fatto degli affidamenti su espressa richiesta di questa persona sospettata di essere vicina alla Camorra. Però noi questo, devo dire, lo cito perché è detto dai giornali, secondo me il punto che abbiamo noi sotto l'interrogazione che io ho depositato ieri al ministro Alfano e che immagino sarà oggetto anche della richiesta dei colleghi membri della commissione antimafia è valutare se al contrario di quello che dice il Movimento 5 Stelle, cioè che la parte lesa sarebbe il loro movimento, se non sia stato leso il diritto di voto in quell'elezione comunale, cioè se il complesso del meccanismo elettorale che ha portato all'elezione di quella giunta non sia stato appunto leso, infiltrato, inquinato da un'indicazione di voto, una persona singola, Grillo fa il furbo e risponde quei voti della persona non sono stati influenti, ma è il meccanismo complessivo che è stato inquinato, peraltro in un ambiente che era già stato oggetto di commissariamento, in un territorio che aveva già visto evidenziata la presenza di infiltrazione mafiosa. Questo noi vogliamo e chiediamo al ministro dell'interno e poi alla commissione antimafia di indagare. Cioè, quindi giusto per chiarire Fiano, il punto non è garantismo meno nei confronti della sindaca o di questo esponente del Movimento 5 Stelle, ma è un punto, voi dite, il voto potrebbe essere stato inquinato e quindi il comune va commissariato in sostanza. Sì, che d'altra parte è quello che il Movimento 5 Stelle ha sempre chiesto per gli altri partiti quando si trattava di altri comuni. È ben singolare che un movimento che si presenta come il nuovo, lindo, pulito, trasparente, quando capita in casa sua, cioè quando capita che un'organizzazione criminale mafiosa, insomma camorristica, chieda i voti, come dice quella frase ormai diventata celebre, dobbiamo portare anche gli ottantenni a mettere una X sul Movimento 5 Stelle, e il Movimento 5 Stelle ritenga di essere parte lesa. No! Se l'ipotesi di reato, cioè di voto di scambio politico mafioso, dovesse venire acclarata, se quell'ipotesi venisse acclarata, significherebbe che quel partito forse ha vinto con voti provenienti da un inquinamento criminale e quindi l'intero meccanismo che ha portato a quell'elezione va inficiato e il comune va commissariato. La ringrazio, grazie ad Emanuele Fiano, deputato del Partito Democratico, che è anche responsabile sicurezza. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire tra un attimo che cosa succede sui mercati, poi nella seconda parte della trasmissione vi racconteremo una storia che sta emergendo poco sui giornali, a dir la verità molto sui social media, che è la storia di Madaya, una città in Siria che è letteralmente sotto assedio, dove ci sono ragazzini e anche adulti alla fame, ridotti a mangiare le foglie. È stato finalmente aperto un corridoio umanitario, vedremo se la situazione migliorerà. E poi parleremo del reato di immigrazione clandestina, lo faremo con una persona che opera sul campo, ossia un magistrato. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Altre 15 denunce per molestie, questa volta arrivano da una città svedese, Kalmar, per molestie nella notte di Capodanno. Intanto 31 persone identificate, tra loro 18 richiedenti asilo per quelle di Colonia in Germania. Germania che valuta un irrigidimento delle norme sulle espulsioni. Le nuove perquisizioni nell'inchiesta su Banca Etruria, si ipotizzano prestiti facili a società degli stessi vertici della banca e quindi conflitto di interessi nella concessione del credito. Le perquisizioni sono avvenute in una quindicina di società. Il procuratore di Bruxelles dice: temiamo un attentato il 15 di gennaio. Intanto nella stessa città, nella stessa capitale belga, è stato trovato il covo dove si costruirono gli esplosivi per le bombe di Parigi. Il governo vuole abolire il reato di immigrazione clandestina e c'è uno scontro tra PD e Nuovo Centrodestra, mentre la Lega dice: prepariamoci all'invasione. La borsa. Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo per fare il punto su questa voce che sta circolando in queste ore, secondo la quale, anche a seguito di una serie di dichiarazioni, il governo sarebbe intenzionato a intervenire a breve per l'abolizione definitiva del reato di immigrazione clandestina, un fatto che sta creando qualche tensione all'interno della maggioranza, con il ministro dell'interno Angelino Alfano, il Nuovo Centrodestra, che sarebbe piuttosto contrario. Dall'altra parte la Lega dice: attenzione, in questo modo rischiamo l'invasione. Noi vogliamo parlare non da un punto di vista politico, ma da un punto di vista tecnico, con una persona che con queste cose ha avuto molto a che fare, probabilmente in gran parte ce l'ha anche adesso, ed è Giovanni Salvi, che adesso è procuratore generale a Roma, e la saluto. Dottor Salvi, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Però è stato a lungo anche procuratore a Catania e quindi ha avuto molto a che fare, come molte procure siciliane, con i temi dell'immigrazione. Allora, procuratore Salvi, nella sua esperienza, che cosa genera all'interno di una procura il reato di immigrazione clandestina? Guardi, innanzitutto la procura di Catania fu investita nel 2014 da quasi 2/3 dell'intero flusso migratorio via mare verso l'Italia, quindi abbiamo maturato un'esperienza molto significativa. Quello che posso dirvi è sicuramente non ha un'efficacia deterrente la minaccia della punizione con una sanzione pecuniaria del reato di ingresso nel territorio dello Stato. Si tratta di persone che affrontano un pericolosissimo viaggio, prima nel deserto, sottoposti alle minacce e alle violenze di ministri irregolari. Arrivano poi sulle coste libiche e da qui affrontano il mare, spesso in condizioni veramente terribili. Io ricordo un caso nel quale addirittura quasi 800 persone morirono in un solo naufragio, il più grave della storia del Mediterraneo. Ecco, pensare che queste persone che arrivano a mettere sulle imbarcazioni così insicure i propri figli, rimanendo a terra perché non hanno il denaro per affrontare questo viaggio, pur di consentire a loro una vita migliore, possano essere in qualche maniera, come posso dire, rallentati nella loro decisione dalla minaccia di una sanzione, io credo che sia veramente una prospettiva sbagliata. E tra l'altro, mi scusi procuratore, c'è un punto, un ascoltatore ci scrive via WhatsApp, semplificando per certi versi, no? Dice: quanto costa perseguire il reato tra avvocati d'ufficio e procedure? Ecco, c'è un punto anche di quanto questo reato vintasa dal punto di vista del lavoro. Sì, intaserebbe moltissimo se venisse interpretato nel senso che ogni ingresso, anche se avvenendo in alto mare, al di fuori delle acque territoriali, il soccorso dovesse dare luogo ad un procedimento, perché voi pensate, bisognerebbe per ognuno di questi nominare un difensore di ufficio, certamente nominare l'interprete, retribuire l'uno e l'altro, impegnare un pubblico ministero e un giudice per la decisione, una decisione che non verrà mai attuata di fatto, perché non vedremo mai più queste persone. Ma oltre a questo danno diretto, diciamo, che deriva dal costo della sanzione, del procedimento, vi è un effetto un po' più difficile da spiegare agli ascoltatori, ma che secondo me è molto importante comprendere. Se noi consideriamo gli immigrati tutti indistintamente come responsabili di un reato, dobbiamo anche sentirli, interrogarli con le forme che sono previste per questo genere di soggetto, cioè per l'imputato, per l'indagato. Quindi da un lato con le garanzie, ancora una volta col difensore, ma anche con una minore efficacia probatoria delle loro dichiarazioni rispetto a quelle rese invece come testimoni. Per questa ragione, ecco, la Procura di Catania assunse un orientamento che la Corte di Cassazione ha convalidato, cioè ha ritenuto che fosse legittimo il nostro orientamento, che era quello di ritenere queste persone non come indagati, ma come persone offese, sì, del reato di traffico di migranti. E quindi utilizzarli come testimoni nei processi contro o i trafficanti di uomini o gli scafisti, in sostanza. Tenete conto che in questa prospettiva noi siamo riusciti anche a ottenere la condanna all'ergastolo di uno trafficante, sì, che aveva provocato volontariamente l'affondamento del natante per consentire la sua fuga e il recupero dei migranti. Rimangono delle, sì, incertezze, sì, capisce? Per cui è bene che ci sia. D'altra, sì, parte, guardi che non è una decisione nuova, perché il legislatore nel 2014 aveva già deciso. Era già intervenuto, poi doveva intervenire il governo con degli attuativi, come il solito problema che abbiamo. È il solito problema che abbiamo. Riesce in 10 secondi, procuratore, un sì, sì, o un no? Un'eventuale abolizione del reato di immigrazione clandestina, ingresso illegale nel nostro territorio, migliora il lavoro delle procure, sì o no? Secondo me sì, significativamente. La ringrazio, grazie a Giovanni Salvi, procuratore, sì, generale a Roma ed ex procuratore di Catania, per essere stato con noi. E noi andiamo nei luoghi da dove viene una parte di questi profughi, in particolare andiamo in una città sotto assedio, a Madaglia, dove i bambini sono costretti a mangiare foglie e c'è una vera e propria crisi umanitaria in corso. Sentiamo. C'è una città a nord-est di Damasco, in Siria, dove i bambini per sopravvivere mangiano le foglie degli alberi, quando non i cani e i gatti. Madaya è sotto assedio da mesi, circondata dalle milizie sciite di Hezbollah, bombardata dai raid di Assad. La popolazione, formata da 40.000 persone, continua a patire fame e freddo, tanto che Medici Senza Frontiere conferma che 23 pazienti del centro sanitario supportato dall'associazione sono morti di fame in poco più di un mese. Tanto che l'ONU ha annunciato di aver ottenuto dal governo siriano l'assicurazione che un convoglio umanitario potrà raggiungere l'area. Andrea Iacomini, portavoce di UNICEF Italia. Ci sono casi di bambini malnutriti, ci sono situazioni chiaramente di fame diffusa, di disperazione. Sulle foto invece userei una certa prudenza, però il fatto che in questa zona stiano facendo ingresso gli aiuti umanitari lascia presagire che la situazione, così come è accaduto, lo ripeto, per Yarmouk e altre città siriane che purtroppo negli scorsi mesi abbiamo un po' dimenticato, la situazione è certamente grave. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E dopo tante storie, anche dolorose, prendiamo un attimo di pausa prima di andare a sentire che cosa succede sulle strade, ancora con un po' di musica. Tornano in concerto i Capitani Coraggiosi, Claudio Baglione e Gianni Morandi, dopo le 12 serate al Foro Olimpico di Roma, che diventano un album live, annunciano un tour di 16 date dal 23 febbraio a Milano. Marta Cagnola gli ha chiesto se si sentono più capitani o più coraggiosi. Noi siamo quelli che sono cuccioli del mondo, che inseguono le nubi e cantano alla luna. Io l'ho detto molte volte che poteva bastare. Io sono Claudio, la parte del capitano Claudio. Io penso che siamo più coraggiosi che capitani, però alla fine, a forza di essere coraggiosi, si viene promossi capitani. Io ho sempre fatto il soldato semplice, adesso sono un capitano in seconda, naturalmente, perché io la guida l'abbiamo identificata, che la fa Claudio. Mi sento molto felice di ripartire, quindi con coraggio, con il cuore, affrontare la gente, affrontare migliaia di persone, le arene, i grandi spazi, ritrovarmi proprio in mezzo alla musica, in mezzo a questa avventura. Tra l'altro mi piace moltissimo cantare le canzoni di Baglioni, quindi non vedo l'ora di ricominciare. Ma posso venire anch'io, quindi questo presuppone che questo sia un invito. Ma lo fa lui un concerto con le tue canzoni? Ecco. No, ma ce le scambiamo le canzoni, io canto le sue e lui qualcosa delle mie anche, no? Io lo devo dire alla radio perché non si vede, due fighi pazzeschi. Diciamolo, perché questa è l'unica cosa che ci dà soddisfazione. Per il resto, che uno sappia cantare e suonare, non ce ne frega proprio niente. Andiamo a sentire cosa succede sulle strade, poi Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.